Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. L'autore che abbiamo oggi ospite odia proprio profondamente le interviste televisive e radiofoniche, quindi abbiamo fatto un patto. Questa intervista andrà in onda integrale, così come la facciamo. Io non farò alcun taglio, durerà esattamente, diciamo, 24-25 minuti netti, più o meno, in modo tale che non ci saranno manipolazioni da parte mia. Lui è Stefano Benni, ora in libreria con La bottiglia magica, un libro illustrato da Luca Ralli e Tambe, pubblicato da Lizard. Benni, ogni volta che si parla di te, naturalmente tu ripeti spesso che non ami particolarmente apparire in televisione, in radio, perché spesso il pensiero può essere in qualche modo manipolato, giusto? E questo la tua preoccupazione? Il verbo odiare no, non appartiene al mio corredo. Non amare particolarmente è vero, sì, perché in televisione è molto difficile che ti lasciano parlare, cioè normalmente ti lasciano 6-7 minuti, 5 parlano loro e spesso dicono vuole dire due battute su un libro, e io che ci ho messo 3-4 anni non riesco a dire due battute su un libro che mi è costato tanta fatica. La radio è diversa, perché io ho fatto anche radio libera, quindi insomma, non mi piace farle per telefono perché non so dall'altra parte cosa succede, cioè io sento la responsabilità della parola, ho fatto il giornalista, quindi cerco in tutti i modi che quello che dico non possa essere travisato, perché le parole sono importanti e alcuni giornalisti sono seri, altri sono furbi, e quando poi una cosa sembra che sia stata detta, è detta e le smentite non servono. I politici, per i politici non è importante, possono dire qualsiasi cazzata. Io ci tengo, e credo che anche il mio pubblico questo, perderò qualche occasione, pazienza. Però sono qua che sto parlando a una radio e quindi garantiscono per voi due mie amiche e quindi me la prenderò con loro. Eh sì, sono le addette stampa con le quali te la prenderai. No, ma il patto è stato fatto personalmente con te, quindi non ci saranno problemi. Questa, La bottiglia magica, è un romanzo illustrato. Non è un romanzo. È una favola, è una storia, come la vogliamo chiamare? Una storia, sì, perché diciamo che l'editore in un primo momento ha fatto un po' il furbetto e ha usato la parola romanzo. Per me romanzo è un'altra cosa, e soprattutto romanzo illustrato non ci sta. È una storia illustrata in cui i disegni hanno lo stesso valore narrativo, eccetera, di emozione rispetto al testo, insomma, sono importantissimi, non sono un corredo. I due protagonisti sono Alina e Pin. Seguiamo le loro storie in modo parallelo, poi ci sarà un momento in cui si incroceranno, però apparentemente all'inizio sono due mondi diversi. Partiamo da Alina. Alina è una ragazza che viene messa dai genitori, insomma, in una sorta di collegio, lo chiamiamo così, che si chiama Villa Apatia. Dal nome, insomma, voglio dire, è una garanzia da questo punto di vista, dove lei deve essere rieducata. Che cos'è questa Villa Apatia, ma soprattutto che cosa hai voluto rappresentare attraverso questa Villa Apatia? Alina è un personaggio, è un omaggio a Alice nel Paese delle Meraviglie di Carroll, però non è l'Alice di Carroll, è molto differente. Quindi si porta dietro tutto l'immaginario, il corredo di animali araldici, di nonsense che è in Lewis Carroll. Alina è semplicemente una ragazza che combatte per la sua unicità, vuole studiare quello che ama. La grande addirittura vuol fare la scrittrice, poverina, non sa cosa va incontro. In questo mondo fiabesco, questo suo desiderio di intelligenza viene sanzionato e quindi la vogliono rieducare. E la vogliono rieducare ovviamente con una specie di educazione o maleducazione al conformismo, che è un po' quello che alcuni settori della tecnologia, della politica, della cultura, vogliono fare coi ragazzi che hanno un'intelligenza un po' particolare, diversa dagli altri. E infatti si coniano tanti ipercinetico, borderline. Lei è solamente una ragazza curiosa e avventurosa, come ce ne sono tante anche tra le mie lettrici. Io le ho conosciute davvero. Cos'è che fa della tecnologia qualcosa di negativo? Spesso non è l'oggetto in sé, ma è il tipo di uso che se ne fa. Hai già risposto. È l'abuso della tecnologia e soprattutto sono le bugie della tecnologia e le promesse della tecnologia. Se la tecnologia mi dice che un telefonino serve per telefonare e mettere in comunicazione, io dico di sì. Se una tecnologia mi dice che il telefonino serve per vincere la solitudine, dico che è una bugia. La libertà, l'intelligenza è una cosa che si conquista col corpo a corpo, fuori, diciamo, dal mondo della tecnologia. E la tecnologia, vabbè, l'hai già detto tu, se tu la usi con intelligenza, in modo critico e soprattutto se sai prenderne anche una distanza, ogni tanto ti fermi e dici cosa mi sta succedendo, ecco. Io penso che quando queste persone girano inchiodate a questo schermo di cellulare, ipnotizzate in questa trance, basterebbe forse filmarle e poi vedere, ecco, questo sei tu oggi, guarda come camminavi per strada, ti rendi conto che stai camminando e tutto intorno a te c'è il mondo e tu guardi lo schermo. Però io non mi ritengo un antitecnologico, mi ritengo assolutamente, probabilmente alla mia età, forse un nostalgico di un tipo di comunicazione abbastanza diversa, dico il corpo a corpo delle intelligenze, però ad esempio adoro il telefonino. Beh, in questa storia, in questo libro, ci sono diversi aspetti che criticano non solo la tecnologia, ma soprattutto aspetti estremi del consumismo di massa. Prima facevamo riferimento ad Alina come diciamo un personaggio quasi all'Alice nel Paese delle Meraviglie, tant'è vero che la fuga da questa villa a Patia mi ha ricordato effettivamente un po' il viaggio di Alice, quando precipita a un certo punto in questo fosso e poi le capitano tante cose. Ma sa, Alice in realtà, non dimentichiamo che anche Alice è stata inventata da un uomo, dal casto pedofilo, io dico Lewis Carroll, quindi da un religioso, e quindi probabilmente in Alice c'è tutta la sua, c'è tutto quello che lui non vorrebbe essere, probabilmente la libertà di cui vorrebbe godere, l'invenzione, e quindi è un personaggio di invenzione. Diciamo che lì c'è l'educazione vittoriana, c'è comunque, come in Alice, c'è un accanimento da parte degli adulti per far sì che tutto quello che dice Alice, quello che pensa, sia messo in discussione e lei debba obbedire. In realtà poi tutte le tecniche che usano questi personaggi adulti sono che vogliono insegnare a Alice come vivere, quindi come vivere in una società come era quella veramente dove è vissuto Lewis Carroll. E questo succede ancora adesso, insomma, che tutti ti vogliono insegnare come vivere, e quasi tutti quelli che ti insegnano come vivere vivono molto male, quindi ti insegnano quello che loro provano, quindi ti insegnano a vivere male. A proposito di adulti e di giovani o bambini, nei tuoi libri, nei tuoi scritti, in genere il coraggio, il bene, l'aspetto positivo fa sempre parte dei bambini o dei giovani, in qualche modo, che combattono. Perché? Ma io mi dicono anche, invece, io ho inventato dei bambini cattivissimi. Se guardi nei miei libri ci sono delle storie dove ci sono dei bambini molto cattivi, vendicativi, quindi non ho questa, non penso che tutti i bambini siano. Però tendenzialmente sono soprattutto loro che incarnano questo aspetto di positività. Sono eroi dell'immaginazione, nel senso che a 13, 14 anni, 12, 10, vorrei che appunto questo libro fosse letto anche da loro, c'è questo sacro disordine dentro di te, si è onnivori, si è curiosi, si legge molto. È il periodo migliore per leggere, poi dopo viene un momento di crisi con la scuola, con le altre tentazioni che sono in questo caso tutti i videogiochi, che non c'è niente di male, insomma, perché un bambino è onnivoro, quindi può nello stesso momento leggere un libro, poi andare a giocare alla PlayStation, poi dopo usare il telefonino, però se si fissa in una sola di queste attività si spegne. C'è un po' una gara tra tutti questi settori della, diciamo, della, io non la chiamo cultura, ma simulazione della cultura, per spegnere tutta quella che è l'unicità di ogni animale. Ma è da sempre questo, esisteva anche ai miei tempi, insomma. Io una volta ero fuori tema, ecco. L'equivalente del fuori tema potrebbe essere un bambino che non sa usare il computer. In realtà poi lo sanno usare anche a 3 anni, però non esistono, ma E quindi sì, è un invito un pochettino a trovare la propria unicità culturale senza disprezzare tutto ciò che è al di fuori di questa unicità. Non, unico non vuole dire di più, meglio, vuol solo dire che alcune passioni mi devono essere più care di altre, io devo approfondirle, andare fino in fondo, mentre invece questo è un mondo che tende, specialmente il mondo di internet, a darti molte informazioni, ma non una vera profondità, e a sapere usare queste prodigiose invenzioni che abbiamo davanti, però cercando di restare uno diverso dall'altro, insomma. Facciamo una breve pausa, poi torneremo ancora a parlare con Stefano Benni di La bottiglia magica, pubblicato da Lizard. Il cacciatore di libri. Riprendiamo a parlare con Stefano Benni del suo ultimo libro, La bottiglia magica, pubblicato da Lizard, una storia illustrata. Prima abbiamo fatto riferimento, per esempio, ad Alice di Lewis Carroll, ma in questo libro ci sono molti riferimenti, sia a personaggi letterari, per esempio penso a Moby Dick, al Capitano Ahab, ma anche a delle favole come Biancaneve, alla distorsione disneyana anche delle favole e a personaggi anche dei cartoni animati. A un certo punto ho trovato Donald Duck, insomma ci sono Zanna Bianca a proposito di letteratura, ma ci sono dei personaggi che riprendono anche tutto il mondo tipico di Stefano Benni. Per esempio, Pin potrebbe ricordare in parte Lupetto di Saltatempo. Se Alice è un omaggio a Lewis Carroll, Pin è un omaggio a Collodi. Perché è l'altro tipo di immaginazione, quindi l'immaginazione contadina, il ragazzo di strada, quello che non incontra la finta tartaruga, ma insomma incontra i carabinieri, e che quindi in questo caso è costretto addirittura a lasciare la sua terra per andare a cercare fortuna. È il giovane avventuriero, ma è molto diverso insomma dal viaggio di Alice. È diverso dal viaggio di Alice, però lui vuole arrivare, lo definisce come luogo di là dal mar, no? Mi ha ricordato anche in parte il concetto dei migranti, cioè che vogliono andare in un altrove pensando di trovare fortuna. Lui pensa di trovare il Bengodi. Sì, nel paese dei balocchi. E in effetti di questi tempi parlare di questo problema dell'emigrazione è difficilissimo, perché c'è tutto un peso di parole che grava su questi problemi gravissimi, è difficile scriverne. Io ho provato di aggirare la cosa, cioè di sottolineare questo aspetto fiabesco, dove lui va verso un luogo attraverso una mappa che è più fiabesco che reale. È come, in un certo senso, spesso i migranti emigrano perché pensano che il nostro paese sia quello della televisione o quello dei giornali. Ma in più c'è un altro aspetto di cui si parla meno, cioè si vede il disagio, la sofferenza, il contrasto che avviene quando i migranti arrivano nel nostro paese, li vediamo qui, e si cancella completamente la partenza, cioè cos'è successo a queste persone, perché sono partite, soprattutto questa cosa che non si dice mai, che cosa si sono lasciate dietro. Forse alcune di esse hanno lasciato dietro niente, sono fuggite, ma molte hanno lasciato dietro degli affetti. E questo è un altro aspetto straziante della cosa, perché mia madre era molisana e nel paese di mia madre, Baranello, il 70% degli uomini emigrò in Canada, e io mi ricordo ancora il dolore di queste donne che erano rimaste, e quindi questo distacco, questa separazione che c'è stata. E qui è molto importante non solo il fatto che lui viaggi, ma perché viaggia, anche per avere fortuna, ma anche perché vorrebbe tanto fare un regalo al padre, ecco. E il distacco tra Geppetto e Pinocchio è dolorosissimo nella bottiglia magica, e in fondo lo è anche in Pinocchio, ed è un aspetto su cui forse non si riflette abbastanza, cioè appunto riflettere su che cosa succede alle persone prima che noi le vediamo arrivare, e ovviamente abbiamo una vera o finta compassione o una vera opposizione. Perché sono partite? Con che sogni? E se veramente hanno lasciato dietro di sé il nulla? Io non lo credo. Infatti in questa storia Pin ha lasciato un padre che comunque gli dice a un certo punto: vai, scegli la tua strada, devi andare incontro al tuo futuro. Insomma, in qualche modo lo sprona ad affrontare la vita che vuole. È anche questa una forma di messaggio. Sì. So che la parola messaggio fa venire un po' l'orticaria, lo capisco. Sì, sì, anche altre malattie, però sì, è il sacrificio, insomma. Dietro ogni separazione c'è un sacrificio, perché si incrina quello che è. C'è una pagina appunto che dice, adesso la dovrei leggere, comunque è abbastanza chiara, coloro che amiamo non sono parte di noi, ma bisognerebbe leggerla. La dobbiamo leggere, perché quella è una pagina che io ho segnato in modo preciso, perché la trovo molto molto intensa e molto vera. Ce la leggeresti? Me la leggo, è per questo. Secondo una parte che un pochino mi emoziona, anche gli scrittori si emozionano delle volte. Tutti coloro che ami sono altro da te. Conoscerai solo una piccola parte dei loro pensieri e loro non conosceranno i tuoi. Avranno gioie e pene in cui tu non sei compreso e giorni e notti in cui non sarai presente nelle loro emozioni. La loro storia è piena di cose che ti resteranno nascoste. È meraviglioso averli vicino, ma la loro vita non ti appartiene. Poi continua: per ciò che manca al vostro amore, amali di più. Quindi c'è l'amore che anche a un certo momento deve vivere nella mancanza. Il mio amico Galimberti direbbe che è figlio di penia, che è la miseria, la mancanza. Devo dire che io ho trovato questo brano molto commovente, perché è vero. La cosa più immediata sarebbe riferirlo ad un figlio, ma in realtà poi se ci si pensa è a tutte le forme di amore che può essere applicato, diciamo con questa brutta parola, quello che tu hai scritto. Sì, a tutte le forme di amore, quella che ho provato di più, insomma l'amore per il figlio, ma anche tipo, non so, l'amor patrio, non so, insomma, di chi lascia la patria, quelle che forse io sento un po' di meno, ma credo che esistano. Un mio amico camerunese che è emigrato, dice, una volta gli disse: ma che cosa ti manca veramente del tuo paese, eccetera, e lui diceva: un grosso pesce che io mangiavo nel lago, che si chiama, adesso non ricordo la parola. Una parola indicibile, esatto, impronunciabile. Che qui voi non avete, credo che sia una specie di carpa, e mi manca tanto la grossa carpa. E lui ha provato a fare questo piatto in tanti modi, ma rimpiange molto questo grosso pesce che lui mangiava nel camero. Anche l'idea che non possiamo conoscere fino in fondo una persona, no? Non possiamo possedere i suoi pensieri, conoscere, cioè dall'idea veramente dell'amore non come forma di possesso, come spesso in realtà viene concepita, soprattutto nei rapporti di coppia. Tu sei mio, io sono tua. Vabbè, qui andiamo in un settore televisivo. Non sto banalizzando. No, nel senso che in televisione si parla molto di queste cose, però è vero che c'è sempre qualcosa di misterioso nelle persone che ami, quindi so tutto di te, conosco tutto di te, anche dopo 60-70 anni di convivenza. Un mio amico pittore che è morto da poco, Pier Achille Cuniberti, che è morto a 91 anni, anche felicemente, quello con cui ho fatto Stranalandia, nell'ultima settimana della sua vita disse alla moglie Lalla: Lalla, ti devo fare una confessione. A me non piace il colore giallo, ma lo metto spesso nei tuoi quadri perché piace a te. L'ho trovato bellissimo questa ammissione, che lui ha dei gialli molto forti, era un segreto che lui aveva e che ha tenuto fino alla fine. Ha tenuto fino alla fine, ha detto: io so che a te piacciono molto quando ci sono dei quadri solari con del giallo, a me piace il nero. Fra le tante cose che mi sono piaciute in questo libro, ecco, diciamo che per gli ascoltatori, giusto per dare un'idea della trama, che comunque il mondo di Alina e di Pin si incontreranno attraverso appunto la bottiglia magica che dà il titolo alla storia. Dicevo, un'altra cosa che mi ha colpito è il concetto della paura. Il drago che fa più paura quando è nascosto dietro la porta che invece quando si apre la porta e lo si guarda in faccia. Mi ha fatto molto pensare questa cosa, perché effettivamente forse siamo noi che tendiamo ad evitare di guardare in faccia le cose che ci fanno paura. Beh sì, anche nel libro prima, Cari mostri, io ci gioco con tutte le tonalità della paura. delle mie paure, di quelle degli altri, però quelle anche sociali c'erano in quel caso. Esatto, quello che io penso è che molto spesso la porta chiusa è terrorizzante, perché dietro la porta noi immaginiamo che ci siano dei grandi pericoli, quindi specialmente per un bambino una porta che cigola e si apre è una cosa terrorizzante, cosa ci sarà dietro? Però poi arriva il mostro e se tu riesci a parlarci, entri nella paura dialogica, magari il mostro è simpatico, magari il mostro ha più paura lui, è un ribaltamento che c'è, oppure il mostro delle volte lo devi affrontare, a volte ti uccide. Però questo non vale solo insomma, per le altre, con la paura delle altre culture, ma banalmente per tutto ciò che ci sorprenderà nella vita. E i bambini hanno voglia di affrontare le loro paure. Se tu tieni chiusa la porta e gli dici non guardare, no? Dietro c'è il famoso babau. No, i bambini, come dire, sanno parlare con i mostri, ci giocano, li prendono per il culo, insomma. E quindi quello che li fa è veramente terrorizzante è il silenzio, è il non parlare delle cose. Se un bambino dice devo avere, che cos'è la morte? Dice non posso dirtelo perché sei troppo piccolo per... Allora la morte diventa... Puoi parlare con un bambino di 7-8 anni della morte, lui ti dirà che cosa pensa e tu dirai cosa pensi e nessuno dei due avrà degli argomenti convincenti. Ecco, Alina in questa storia è quella soprattutto che vuole vedere che cosa c'è dall'altra parte della porta, insomma vuole vedere in faccia il mostro da questo punto di vista. Una cosa mi ha stupito però, che ho trovato forse un po' insolita per Stefano Benni, ma forse mi sbaglio, non l'ho capita io. Nel senso che in questa storia c'è comunque il ragazzo Pin che vuole arrivare al di là del mare, eccetera, ma anche che vuole salvare la ragazza in pericolo, Alina, che è prigioniera comunque di questa torre. Questo fa parte di un immaginario classico, insomma, delle storie, delle favole, però di un immaginario molto maschile. Beh, io scherzo proprio su questo, sul fatto che lui è, come tutti gli eroi, è un fifone. In realtà da sempre il drago è l'alibi dell'eroe, no? L'eroe in realtà vuole il tesoro, vuole la ragazza e dice beh, è perché c'è il drago, ammazza il drago è... Quindi è una presa un po' per i fondelli del meccanismo. Sì, ma infatti quando loro si incontrano il gioco è Giulietta e Romeo, cercano sì. Tutti e due di giocare a Giulietta e Romeo con risultati devastanti perché lui non capisce perché... Lui non capisce neanche la citazione shakespeariana, no, diciamo. Lei è un po' più colta di lui, però c'è appunto questo ribaltamento che in realtà... Lei è più attrice di lui, lui è più genuino, però vuole essere salvata. In realtà quello di cui ha bisogno lei è di un amico, perché in questo posto dov'è non ha amici. E questo lo diventeranno amici anche se in un modo abbastanza litigioso, perché sono abbastanza diversi. Anche se non è vero, insomma, lui apparentemente vuole fare i soldi, ma non è così. E lei vuole fare la scrittrice miliardaria e quindi... Di bestseller, di bestseller, cioè, scritto da Stefano Benni. Neanche di libri normali, però è ovvio che lei, insomma, tutti e due sanno poi prendersi in giro. Poi voglio dire, due che hanno come... Diciamo nei loro dialoghi i loro amici sono un gatto, un web gatto si chiama Mouse, è un topo coltissimo, bibliofilo, rompicoglioni che parla 55 lingue, è ovvio che insomma non possono prendersi sul serio. Grazie a Stefano Benni, ora in libreria con La bottiglia magica. Storia illustrata pubblicata da Lizard. Vi ricordo che potete trovare queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su podcast su radio24.it. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.